Incontri di Gianfranco Fabi. Viva la vita di Coldplay, iniziamo l'incontro di questa sera, grazie a quanti ci ascoltano e buonasera a Domenico Zaccone. Buonasera. Ecco, prima di presentarvi Domenico Zaccone, gli chiediamo perché ha scelto questa dirompente canzone, questo inno in fondo alla gioia ma anche all'ottimismo. Devo dire che l'ho utilizzata in un paio di occasioni, uno sono le feste dei 18 anni delle mie figlie, per celebrare il Brindisi, e l'altra invece per un evento della società che gestivo prima. È una canzone da molte emozioni, da molta gioia e soprattutto, come diceva lei, spirito positivo. E io penso che sia un buon ingrediente oggi. Ecco, Domenico Zaccone potremmo definirlo un leader d'impresa. È stato amministratore delegato di Sara Lee, è stato amministratore in Unilever, adesso ha una propria attività nel campo finanziario, ma anche molti impegni nel campo, diciamo così, extra aziendale in senso stretto, o sbaglio? Sì, e devo dire che dunque io ho 51 anni e da qualche anno ho iniziato a riflettere un pochettino su come essere un pochettino una persona più a tutto tondo, e quindi io sono appassionatissimo del mio lavoro come professionista, però ho voglia anche di essere una persona che va oltre l'ambito professionale, e quindi ho provato a mettere così a frutto le mie esperienze professionali in altri settori attivi, secondo questa logica un po' americana del give back, quindi la voglia anche non solo di prendere ma anche di restituire. Quindi di fare qualcosa anche a livello di non profit, a livello di animazione, diciamo, sociale. Lei per esempio è uno degli animatori proprio del forum della meritocrazia, che tra l'altro ha come partner proprio il Sole 24 Ore, sono stati alcuni eventi che sono stati ospitati dal Sole 24 Ore. Che cos'è il forum della meritocrazia? Ma è un'iniziativa no profit, fondata 6 anni fa da un gruppo di 15 ragazzi che ha così l'aspettativa di promuovere la cultura del talento in Italia e della meritocrazia. Lo facciamo attraverso delle iniziative molto concrete, sostanziali, perché pensiamo che oggi non basti solo parlare di meritocrazia, ma bisogna fare qualche cosa. Quindi noi stiamo facendo delle cose molto particolari. Soprattutto verso i giovani, mi pare, cioè per avviare, per permettere ai giovani di essere, di diventare imprenditori, dove il merito conta molto, ma contano molto anche i supporti operativi che spesso, in primis i capitali, non sono difficili da trovare. Sì, allora, ma noi stiamo facendo 3 iniziative particolari. Una, ci tengo a sottolinearla, perché per fare le cose bisogna anche misurarle. E quindi abbiamo così lanciato questo meritometro, è uno strumento che misura lo stato della meritocrazia in Italia, lo confronta con altri paesi europei. Ahimè, il dato non è confortante, siamo in fondo alla classifica con un gap di oltre il 100% rispetto ai primi paesi, però non ci si scoraggia. L'importante è misurare e poi fare delle cose per vedere che questo indicatore migliori. E questo meritometro è uno strumento nuovo con carattere scientifico, è stato sviluppato insieme al professor Rosina dell'Università Cattolica di Milano. L'abbiamo lanciato lo scorso 4 di febbraio, proprio in collaborazione anche col Sole 24 Ore. Poi facciamo una seconda attività che invece è rivolta ai giovani, si chiama Incubatore dei Talenti. Quindi mettiamo a disposizione dei giovani talentuosi delle università italiane, non le università leader, ma le università, come chiamiamo noi, di seconda fascia, che sono l'Università Bicocca di Milano, Insubria e l'Università di Parma. Diamo a 60 giovani talenti l'opportunità di seguire un programma di mentorship. Grazie a 55 più o meno mentor, che hanno più o meno la mia esperienza, che li accompagnano nel percorso di ingresso verso il mondo del lavoro. E poi invece la terza iniziativa è rivolta invece, diciamo, a quello che io chiamo il soffitto di cristallo, di vetro, che sono i consigli di amministrazione, secondo la logica per cui se bisogna iniziare a fare meritocrazia bisogna partire dal vertice, e quindi che deve dare l'esempio. Ecco, l'Italia è ancora un paese molto fondato sulle relazioni, sulle amicizie, sul do des, sul fatto di fare qualcosa perché si può avere qualche beneficio. Si riuscirà a superare e a far avanzare il merito? Si vede qualche segnale di una società più aperta, di una società più responsabile anche verso i giovani? Ma allora, devo dire che da questo punto di vista siamo all'inizio. Per chi ha gestito imprese sa che il talento, non è bello avere i talenti giusto per divertimento, ma sappiamo che i talenti sono quella parte dell'azienda che porta miglioramento, poi è crescita alle aziende. Quindi noi pensiamo che portando avanti i talenti nella società italiana, in tutte le realtà, ci sia capacità di tornare a crescere. È chiaro che il talento parte dal giovane, quindi noi puntiamo prevalentemente sui giovani, non nascondendoci che insomma il talento è in ciascuno di noi, quindi a qualsiasi età si può avere del talento da mettere a disposizione. Ecco, in questa prospettiva lei è stato, appunto, abbiamo detto, amministratore delegato di Sara Lee, amministratore di Unilever, cioè di grandi aziende multinazionali. Che differenza c'è tra la realtà italiana e la realtà americana o la realtà anche di altri paesi europei? C'è una forte differenza nel tipo di gestione, nel modello di gestione, nella capacità di queste imprese di valorizzare le persone anche partendo dal basso? Intanto mi piace la sua parola che ha utilizzato, che differenza c'è, perché molti o si sentono sempre numeri due rispetto agli altri paesi, e questo non è corretto, oppure si sentono sempre prime donne. Io penso che la bellezza dell'esperienza che ho fatto io, che sto facendo, è quella di poter vedere in giro per il mondo le varie esperienze e cogliere le differenze, la propria unicità. Ma sul tema dei talenti, guardi, il processo che io ho sempre utilizzato è il concetto di performance. Quindi un talento lo si misura sulla base degli obiettivi che si definiscono all'inizio anno, si misurano poi i risultati e si definisce se questa è una persona che è capace di portare risultati sì o no, che non sono solo risultati di natura economico-finanziaria, sono certo, di tipo anche organizzativo, di tipo relazionale, esatto. Quindi questa cultura della performance e della trasparenza anche dei risultati della performance è una cultura tipica del mondo, diciamo, Nord Europa, cosa che magari, ecco, qui in Italia, diciamo, abbiamo molto da migliorare da questo punto di vista, quindi su trasparenza e su processi che rendano accessibile a chiunque abbia la potenzialità, anche in questo caso posizioni di vertice. Ecco, in questo senso abbiamo detto, appunto, questa attività anche del Foro della Meritocrazia di avviare i giovani, di sostenere i giovani a crearsi le loro attività. Adesso si guarda molto ai giovani che vanno all'estero, ci possono essere, certamente è importante anche andare a fare esperienza all'estero, però ci possono essere delle opportunità anche in Italia e queste vanno perseguite. Io non sono d'accordo su chi vede con timore la fuga dei cervelli all'estero, nel senso che questo è una grande opportunità che abbiamo. Semmai la vera domanda che dobbiamo farci è se noi siamo un paese che è capace di attrarre dei talenti dall'estero. Che la bilancia dei giovani resti, bravo, in equilibrio. Resti in equilibrio. Incontri. Ancora con Viva la Vida, questo inno alla vita, inno all'ottimismo. Prendiamo il nostro incontro di questa sera con Domenico Zaccone, leader d'impresa, è stato amministratore delegato di Sara Lee, è stato amministratore in Unilever, ora è senior advisor di PZ Partners, un'azienda internazionale che supporta azionisti executive sulla leadership, sulle strategie di impresa. Abbiamo concluso la prima parte citando il fatto che Domenico Zaccone ha avuto negli ultimi anni anche un ruolo, diciamo, nel rilancio, nella sistemazione di San Patrignano, da imprese profit a imprese su dei beni di largo consumo, imprese internazionali, a un'impresa, direi, ugualmente importante, anche se dedicata, appunto, al recupero, all'avvio al lavoro di tanti giovani che si trovano in difficoltà. Com'è nata questa impresa a San Patrignano? Ma è nata da una telefonata che ho ricevuto da una persona che faceva il presidente del collegio sindacale dell'azienda che gestivo in precedenza, di Sara Lì, che durante il mese di agosto mi ha detto: Domenico, vorrei che parlassi con la famiglia Moratti perché dovremmo dargli una mano. Da lì è nata poi questa relazione con la famiglia Moratti, che io non conoscevo prima. Sì, perché Sampradiana è stata fondata da Muccioli, poi dopo, nel corso degli anni, la famiglia Moratti è diventata il grande sponsor di questa iniziativa. Sì, devo dire che è un percorso che hanno fatto insieme dall'inizio e tuttora li vede attori predominanti, dove però con lungimiranza loro hanno iniziato a farsi le domande su come dare continuità poi a questo tipo di realtà che ha un impatto formidabile. Più di 70.000 persone sono passate da quel centro. È una comunità che oggi ha più o meno 1.500 persone che vivono all'interno. Ci lavorano più di 400 persone, diciamo, con attività normale da impiegati. È una comunità che ha all'interno più di 60 attività produttive, perché questo riconosce nel percorso di recupero di queste persone il lavoro come pilastro fondante, certo, per recuperare la dignità delle persone. È la più grande comunità che esiste in Europa ed è una comunità che diciamo è fortemente radicata nel territorio di Rimini, infatti sì. È un'attività appunto che ha molte attività collaterali nel campo artigianale, nel campo agricolo, nel campo anche commerciale, della ristorazione. E come si è trovato a dover affrontare i problemi della gestione di un'attività di questo tipo? Quali sono stati i problemi principali che ha dovuto affrontare Domenico Zaccone? Come dicevo prima, il tema è dare una risposta alla volontà di dare lunga vita a San Patrignano. La famiglia Moratti, insomma, ha la sua età, guarda avanti e come tutte le famiglie si fa la domanda anche su come gestire i passaggi generazionali. Quindi la più grande sfida è stata quella di capire come riuscire a dare continuità non avendo più a disposizione un leader fondatore come Vincenzo Muccioli. E sostituire un leader come Vincenzo Muccioli è praticamente impossibile. Quindi dopo che era stato chiesto al sottoscritto di così prenderne la guida, ho risposto grazie, ma non penso sia il modello vincente, e abbiamo allora costruito un modello di leadership, come io chiamo, diffusa. Quindi oggi a San Patrignano un gruppo di 15 persone gestisce la comunità con delle regole di governance che abbiamo mutuato un po' dal mondo dell'impresa privata, e questo darà lunga vita quantomeno alla gestione di San Patrignano, quindi non ci sarà più una vita legata solo all'esistenza di una persona. Ed è una vita appunto che è strettamente efficiente, nel senso che deve trovare al proprio interno le risorse per mantenersi, non è qualcosa che dipende dalle elargizioni altrui. Certamente ci sono poi i contributi, le offerte che tutti possono dare, però deve avere anche un proprio equilibrio interno come gestione finanziaria, come gestione economica. Questa infatti è la seconda sfida. Voi sapete che tutto il mondo del no profit ha sempre vissuto secondo un principio del facciamo le cose, poi a fine anno qualcuno ci penserà. Questo è un principio che la famiglia Moratti ha voluto mettere in discussione, e quindi abbiamo iniziato a costruire tutti quei processi tipici dell'impresa che prova a inizio anno a pianificare l'attività, a capire come fare in modo che si autofinanzino. Diciamo che quindi abbiamo dovuto portare dentro cultura di controllo di gestione, di pianificazione delle attività. Oggi i risultati sono discreti, non è ancora una realtà che si autosostiene, ma la direzione è quella. Quindi ecco, questo è un po' il lavoro. Però mi sembra anche importante che ci siano realtà che hanno in fondo bisogno anche dei contributi, dell'attenzione, della partecipazione anche degli altri, realtà che sottolineano l'esigenza appunto di una missione sociale, come recuperare dei giovani che hanno perso la strada, e quindi in questo senso anche un apporto esterno è qualcosa che rientra nell'equilibrio complessivo, e quindi il fatto che abbiano bisogno magari di apporti esterni, sollecitare le donazioni, può essere un elemento positivo. Ma certo che tutta l'area del fundraising oggi, per esempio, non è più un'attività che può essere di natura artigianale, è un'attività che richiede competenze anche molto avanzate, soprattutto considerando che oggi ci si muove a livello internazionale, ci si muove con standard di riferimento di altissima trasparenza, perché i donatori vogliono vedere esattamente dove vanno a finire poi, certo, le donazioni e che impatto hanno. Sapete che c'è tutto il fenomeno oggi chiamato dell'impact investment, che è un fenomeno che sta iniziando a toccare le imprese sociali. Ecco, anche in questo caso stiamo portando un po' di competenze manageriali per aiutare le imprese sociali a gestire poi questo impact investment, perché risorse in giro per il mondo ce ne sono tante. Bisogna riuscire a essere attraenti verso chi vuole e può donare. Io ho un'esperienza, per esempio, che poi ho portato in un'altra realtà che si chiama Cometa, che sta a Como, dove abbiamo 500 ragazzi, diciamo, in dispersione scolastica. E noi siamo riusciti in quel caso ad attrarre risorse da una delle banche private più grandi del mondo, dove abbiamo dovuto però mettere in campo le classiche tecniche che si utilizzano per attrarre investitori finanziari nell'impresa sociale. Però. Cioè, dimostrando l'efficienza, in fondo il rendimento del capitale, non un rendimento misurato a livello di profitto, ma misurato a livello di crescita sociale, di risoluzione dei problemi delle persone in fondo. La vedo preparatissima, complimenti. No. Infatti il tema è proprio quello, cioè usare degli indicatori dove bisogna riuscire a far vedere quant'è il ritorno dell'impatto sociale, che nel caso per esempio di Cometa è la capacità di non far abbandonare la scuola a questi ragazzi, o nel caso di San Patrignano è la capacità di finire il percorso e di entrare nel mondo del lavoro. Poi il ritorno economico, diciamo che l'impact investment non si aspetta altri ritorni, si aspetta, diciamo, un ritorno rasente allo zero. Sì, sì, come indubbiamente il fatto di poter essere presente all'interno della società e di poter mantenere queste attività, non si tratta di fare dei profitti, ma sicuramente mantenerle in grado di affrontare questi problemi. Questo possiamo dire, dando una visione un po' più generale, che in Italia ci sono delle realtà di questo tipo in cui la dimensione sociale prevale sulla dimensione economica, anche se la dimensione economica resta fondamentale. Sì, oggi in Italia penso che la sfida più bella che abbiamo a disposizione sia quella, secondo me, di provare a mettere insieme tante desideri che sono latenti nella società. C'è il desiderio di avere un modello di società più sostenibile, quindi più duratura nel tempo. Ci sono i ragazzi che, pensi, mi raccontava Mario Molteni, il direttore di Altis dell'Università Cattolica, che il 10% dei ragazzi che si laurea presso la sua università, quando cerca lavoro, cerca un lavoro che abbia un senso. Allora, tutta questa domanda, diciamo, di senso può avere uno sbocco sul tema dell'impresa sociale, dove, ecco, l'opportunità che abbiamo è quella di costruire un modello di impresa sociale che, per esempio, dia una risposta anche al tema della disoccupazione giovanile. Oggi c'è questa grandissima opportunità. Ci sono paesi che hanno già fatto qualche esperimento, per esempio l'Inghilterra, dove il David Cameron ha costruito questo ministero junior, però un ministero per l'impresa sociale, quindi che non rientra più all'interno del ministero del lavoro piuttosto che dell'economia in senso stretto. E questo ministero sta portando degli risultati molto importanti. Per esempio, mi raccontavano che hanno preso tutti i conti dormienti delle bancari, dove hanno detto tutti i conti dormienti superiori ai 15 anni, noi li prendiamo e li mettiamo a disposizione delle imprese sociali. Poi, se uno si fa vivo dopo 20 anni, ha sempre diritto a recuperarli, però nel frattempo mettiamo in circolo delle risorse. Questo è un esempio di quello che si potrebbe fare anche in Italia, cioè provando a concentrarsi molto di più sull'impresa sociale, che è un settore molto ampio, per fare delle iniziative che abbiano un impatto anche sul tema della disoccupazione e sulla volontà dei giovani di fare qualcosa che abbia un senso. Sì, in una società in fondo che cambia deve tener conto delle nuove esigenze, dell'invecchiamento della popolazione per esempio, e dell'esigenza che in fondo ha raggiunto un certo livello complessivo di benessere, anche gli obiettivi sociali devono essere posti in primo piano, e con le risorse che ci sono si potrebbe fare molto di più di quanto si fa. Questo può essere appunto un appello di un gestore di impresa, di un leader di impresa, dire che l'economia è fondamentale, ma è comunque sempre uno strumento per rendere la società più giusta, più vivibile. Fondo. Guardi, grazie per la considerazione. Io vengo da esperienze dove nel gestire imprese a me hanno sempre detto le risorse sono quelle, no, farle rendere al meglio. Noi viviamo in uno Stato che incamera più di 800 miliardi all'anno, in continua crescita, eppure le risorse non bastano mai. Allora, io penso che avere la possibilità di gestire un montare di risorse di 800 miliardi senza chiedere di più sia la sfida che dei buoni gestori del bene comune debbano fare: sapere gestire in maniera efficiente, sapere fare delle scelte su dove mettere quelle risorse, e penso che la direzione sia quella. Penso. Il miglior capitale sono sempre le persone che sappiano appunto anche gestire i capitali. Grazie a Domenico Zaccone di essere stato con noi questa sera, speriamo di aver dato un messaggio per guardare appunto a questa nostra società in una maniera, non dico ottimistica, ma costruttiva, per affrontare non solo i problemi economici, ma anche i problemi in fondo del senso della vita, del senso della società, del senso della solidarietà. Grazie a Domenico Zaccone, grazie a quanti ci hanno ascoltato, grazie a Peter Bescapè in regia, Luca Cremonese in redazione. L'appuntamento con Incontri è per domenica prossima.